Capitolo diciottesimo de Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo diciottesimo. Il fu Mattia Pascal. Tra l'ansia e la rabbia, non sapevo che mi agitasse di più, ma eran forse una cosa sola, ansiosa rabbia, rabbiosa ansia. Non mi curai più se altri mi riconoscesse prima di scendere o appena sceso a Miragno. M'ero cacciato in un vagone di prima classe per unica precauzione. Era sera, e del resto l'esperimento fatto su Berto mi rassicurava. Radicata com'era in tutti la certezza della mia trista morte, ormai di 2 anni lontana, nessuno avrebbe più potuto pensare che io fossi Mattia Pascal. Mi provai a sporgere il capo dal finestrino sperando che la vista dei noti luoghi mi destasse qualche altra emozione meno violenta. Non valse che a farmi crescere l'ansia e la rabbia. Sotto la luna intravidi da lontano il clivio della stia. Assassine, fischiai tra i denti. Là. Ma ora. Quante cose, sbalordito dall'inattesa notizia, mi ero dimenticato di domandare a Roberto. Il podere e il molino erano stati davvero venduti? O eran tuttora per comune accordo dei creditori sotto un'amministrazione provvisoria? E Malagna era morto, e zia Scolastica? Non mi pareva che fossero passati soltanto 2 anni e mesi. Un'eternità mi pareva, e che, come erano accaduti a me casi straordinari, dovessero parimenti esserne accaduti a Miragno. Eppure niente forse vi era accaduto oltre quel matrimonio di Romilda con Pomino, normalissimo in sé, e che solo adesso, per la mia ricomparsa, sarebbe diventato straordinario. Dove mi sarei diretto appena sceso a Miragno? Dove s'era composto il nido, la nuova coppia? Troppo umile per Pomino, ricco e figlio unico, la casa in cui io, poveretto, avevo abitato. E poi Pomino, tenero di cuore, ci si sarebbe trovato certo a disagio lì con l'inevitabile ricordo di me. Forse s'era accasato col padre nel palazzo. Figurarsi la vedova pescatore che aria da matrona adesso. E quel povero cavalier Pomino, Gerolamo I, delicato, gentile, mansueto, tra le grinfie della megera. Che scene. Né il padre, certo, né il figlio avevano avuto il coraggio di levarsela dai piedi. E ora ecco, ah che rabbia, li avrei liberati io. Sì, là, a casa Pomino, dovevo indirizzarmi. Che se anche non ce li avessi trovati, avrei potuto sapere dalla portinaia dove andarli a scovare. Oh paesello mio addormentato, che scompiglio di mani alla notizia della mia resurrezione. C'era la luna quella sera, e però tutti i lampioncini erano spenti al solito per le vie quasi deserte, essendo l'ora della cena pei più. Avevo quasi perduto per la estrema eccitazione nervosa la sensibilità delle gambe. Andavo come se non toccassi terra coi piedi. Non saprei ridire in che animo fossi. Ho soltanto l'impressione come d'una enorme omerica risata che nell'orgasmo violento mi sconvolgeva tutte le viscere senza poter scoppiare. Se fosse scoppiata, avrebbe fatto balzar fuori come denti i selci della via e vacillar le case. Giunsi in un attimo a casa Pomino, ma in quella specie di bacheca che è nell'androne non trovai la vecchia portinaia. Fremendo, attendevo da qualche minuto, quando su un battente del portone scorsi una fascia di lutto stinta e polverosa, inchiodata lì evidentemente da parecchi mesi. Chi era morto? La vedova pescatore? Il cavalier Pomino? Uno dei due, certamente. Forse il cavalier... In questo caso, i miei 2 colombi li avrei trovati su, senz'altro, insediati nel palazzo. Non potei aspettar più oltre. Mi lanciai a balzi su per la scala. Alla seconda branca, ecco la portinaia. Il cavalier Pomino? Dallo stupore con cui quella vecchia tartaruga mi guardò, compresi che proprio il povero cavaliere doveva essere morto. Il figlio, mi corressi subito riprendendo a salire. Non so che cosa borbottasse tra sé la vecchia per le scale. A piè dell'ultima branca dovetti fermarmi. Non tiravo più fiato. Guardai la porta. Pensai, forse cenano ancora tutti e 3 a tavola senza alcun sospetto. Fra pochi istanti, appena avrò bussato a quella porta, la loro vita sarà sconvolta. Ecco, è in mia mano ancora la sorte che pende loro sul capo. Salii gli ultimi scalini. Col cordoncino del campanello in mano, mentre il cuore mi balzava in gola, tesi l'orecchio. Nessun rumore. E in quel silenzio ascoltai il tin tin lento del campanello tirato appena, pian piano. Tutto il sangue m'affluì alla testa e gli orecchi presero a ronzarmi come se quel lieve tintinno che s'era spento nel silenzio m'avesse invece squillato dentro furiosamente e intronato. Poco dopo riconobbi con un sussulto di là dalla porta la voce della vedova pescatore. «Chi è?» Non potei lì per lì rispondere. Mi strinsi le pugna al petto come per impedir che il cuore mi balzasse fuori. Poi, con voce cupa, quasi sillabando, dissi «Mattia Pascal!» «Chi?» strillò la voce di dentro. «Mattia Pascal!» ripetei incavernando ancor più la voce. Sentii scappare la vecchia strega, certo atterrita, e subito immaginai che cosa in quel momento accadeva di là. Sarebbe venuto l'uomo adesso. Pomino, il coraggioso! Ma prima bisognò ch'io risonassi, come dianzi, pian piano. Appena Pomino, spalancata di furia la porta, mi vide, erto, col petto in fuori, innanzi a sé, retrocesse esterrefatto. M'avanzai gridando «Mattia Pascal, dall'altro mondo!» Pomino cadde a sedere per terra con un gran tonfo sulle natiche, le braccia puntate indietro, gli occhi sbarrati. «Mattia, tu!» La vedova pescatore, accorsa col lume in mano, cacciò uno strillo acutissimo da parto oriente. Io richiusi la porta con una pedata ed un balzo le tolsi il lume che già le cadeva di mano. «Zitta!» le gridai sul muso. «Mi prendete per un fantasma davvero?» «Vivo!» fece lei allibita con le mani tra i capelli. «Vivo, vivo, vivo!» seguitai io con gioia feroce. «Mi riconosceste morto, è vero, affogato là?» «E di dove vieni?» mi chiese con terrore. «Dal molino, strega!» le urlai. «Tieni qua il lume, guardami bene, sono io! Mi riconosci o ti sembro ancora quel disgraziato che s'affogò alla stia?» «Non eri tu?» «Crepa, megera! Io sono qua, vivo! Su, alzati tu, bel tomo! Dov'è Romilda?» «Per carità», gemette Pomino levandosi in fretta. «La piccina, ho paura, il latte!» Lo afferrai per un braccio restando io, ora, a mia volta. «Che piccina?» «Mia figlia», balbettò Pomino. «Ah, che assassinio!» gridò la pescatore. Non potei rispondere, ancora sotto l'impressione di questa nuova notizia. «Tua figlia», mormorai. «Una figlia, per giunta. È questa ora?» «Mamma, da Romilda, per carità», scongiurò Pomino. Ma troppo tardi. Romilda, col busto slacciato, la poppante al seno, tutta in disordine, come se alle grida si fosse levata di letto in fretta e in furia, si fece innanzi, m'intravide. «Mattia!» e cadde tra le braccia di Pomino e della madre, che la trascinarono via, lasciando nello scompiglio la piccina in braccio a me, accorso con loro. Restai al buio, là, nella sala d'ingresso, con quella gracile bimbetta in braccio, che vagiva con la vocina agra di latte. Costernato, sconvolto, sentivo ancora negli orecchi il grido della donna che era stata mia e che ora, ecco, era madre di questa bimba non mia, non mia, mentre la mia, non la aveva amata lei allora. E dunque no, io ora no, per Dio, non dovevo aver pietà di questa, né di loro. S'era rimaritata, e io ora... Ma seguitava a vagire quella piccina, a vagire. E allora che fare? Per quietarla me la adagiai sul petto e cominciai a batterle pian pianino una mano sulle spallucce e a dondolarla passeggiando. L'odio mi sbollì, l'impeto cedette, e a poco la bimba si tacque. Pomino chiamò nel buio con sgomento. «Mattia, la piccina!» «Sta zitto, l'ho qua», gli risposi. «E che fai?» «Me la mangio!» «Che faccio? L'avete buttata in braccio a me? Ora lasciamela stare, s'è quietata. Dov'è Romilda?» Accostandomisi tutto tremante, sospeso, come una cagna che vede in mano al padrone la sua cucciola. «Romilda? Perché?» mi domandò. «Perché voglio parlarle», gli risposi ruvidamente. «È svenuta, sai? Svenuta? La faremo rinvenire!» Pomino mi si parò davanti supplichevole. «Per carità, senti, ho paura. Come mai tu, vivo, dove sei stato? Oh Dio, senti, non potresti parlare con me?» «No», gli gridai. «Con lei devo parlare. Tu qua non rappresenti più nulla. Come? Io?» «Il tuo matrimonio s'annulla!» «Come? Che dici? E la piccina?» la piccina», masticai. «Svergognati! In 2 anni, marito e moglie e una figliuola!» «Zitta, carina, zitta. Andiamo dalla mamma. Su, conducimi. Di dove si prende?» Appena entrai nella camera da letto con la bimba in braccio, la vedova pescatore fece per saltarmi addosso come una iena. La respinsi con una furiosa bracciata. «Andate là voi! Qua c'è vostro genero. Se avete da strillare, strillate con lui. Io non vi conosco. Mi chinai verso Romilda che piangeva disperatamente e le porsi la figliuola. Su, tieni. Piangi? Che piangi? Piangi perché son vivo. Mi volevi morto. Guardami. Su, guardami in faccia. Vivo o morto? Ella si provò tra le lagrime ad alzare gli occhi su me e con voce rotta dai singhiozzi balbettò. Ma come? Tu? Che hai fatto? Io che ho fatto? Sogghignai. Lo domandi a me che ho fatto. Tu hai ripreso marito, quello sciocco là. Tu hai messo al mondo una figliuola e hai il coraggio di domandare a me che ho fatto. E ora, gemette Pomino, coprendosi il volto con le mani. Ma tu, dove sei stato? Se ti sei finto morto e te ne sei scappato, prese a strillarla Pescatore, facendosi avanti con le braccia levate. Gliene afferrai uno, glielo storsi e le urlai. Zitta, vi ripeto, statevene zitta voi, perché se vi sento fiatare, perdo la pietà che mi ispira codesto imbecille di vostro genero e quella creaturina là, e faccio valer la legge. Sapete che dice la legge? Ch'io ora devo riprendermi Romilda. Mia figlia, tu sei pazzo, inveì imperterrita colei. Ma Pomino, sotto la mia minaccia, le si accostò subito a scongiurarla di tacere, di calmarsi, per amor di Dio. La megera allora lasciò me e prese a inveire contro di lui, melenso, sciocco, buono a nulla, e che non sapeva far altro che piangere e disperarsi come una femminuccia. Scoppiai a ridere fino ad averne male ai fianchi. «Finitela!» gridai quando potei frenarmi. «Gliela lascio, la lascio a lui volentieri. Mi credete sul serio così pazzo da ridiventar vostro genero?» Ah, povero Pomino, povero amico mio, scusami, sai, se t'ho detto imbecille. Ma hai sentito, te l'ha detto anche lei, tua suocera. E ti posso giurare che anche prima me l'aveva detto Romilda, nostra moglie. Sì, proprio lei, che le parevi imbecille, stupido, insipido. E non so che altro. È vero, Romilda, di la verità. Su, su, smetti di piangere, cara, rassettati. Guarda, puoi far male alla tua piccina così. Io ora son vivo, vedi? E voglio stare allegro. Allegro, come diceva un certo ubriacone amico mio. Allegro, Pomino. Ti pare che voglia lasciare una figliuola senza mamma? Oi boh, ho già un figliuolo senza babbo. Vedi, Romilda, abbiamo fatto pari e patta. Io ho un figlio che è figlio di Malagna e tu ormai hai una figlia che è figlia di Pomino. Se Dio vuole, li mariteremo insieme un giorno. Ormai quel figliuolo là non ti deve far più dispetto. Parliamo di cose allegre. Ditemi come tu e tua madre avete fatto a riconoscermi morto là alla stia. Ma anch'io, esclamò Pomino esasperato. Ma tutto il paese, non esse sole. Bravi, bravi. Tanto dunque mi somigliava? La tua stessa statura, la tua barba, vestito come te, di nero. E poi scomparso da tanti giorni. Eh già, me n'ero scappato, hai sentito? Come se non m'avessero fatto scappar loro. Costei, costei. Eppure stavo per ritornare, sai. Ma sì, carico d'oro. Quando, che è, che non è, morto, affogato, putrefatto. È riconosciuto per giunta. Grazie a Dio mi sono scialato 2 anni, mentre voi qua fidanzamento, nozze, luna di miele, feste, gioie, la figliuola. Chi muore giace, eh? E chi vive si dà pace. E ora, come si fa ora? Ripeté Pomino gemendo tra le spine. Questo dico io. Romilda s'alzò per adagiar la bimba nella cuna. Andiamo, andiamo di là, diss'io. La piccina si è riaddormentata, discuteremo di là. Ci recammo nella sala da pranzo dove, sulla tavola ancora apparecchiata, erano i resti della cena. Tutto tremante, stralunato, scontraffatto nel pallore cadaverico, battendo di continuo le palpebre sugli occhietti diventati scialbi, forati in mezzo da 2 punti neri, acuti, di spasimo, Pomino si grattava la fronte e diceva, quasi vaneggiando, «Vivo, vivo, come si fa? Come si fa?» «Non mi seccare!» gli gridai. «Adesso vedremo, ti dico!» Romilda, indossata la veste da camera, venne a raggiungerci. Io rimasi a guardarla alla luce, ammirato. Era ridivenuta bella come un tempo, anzi più formosa. «Fammiti vedere», le dissi. «Permetti, Pomino, non c'è niente di male, sono marito anch'io, anzi prima e più di te. Non ti vergognare, via, Romilda!» «Guarda, guarda come si torce Mino, ma che ti posso fare se non son morto davvero?» «Così non è possibile», sbuffò Pomino livido. «S'inquieta», feci ammiccando a Romilda. «No, via, calmati, Mino. Ti ho detto che te la lascio e mantengo la parola. Solo aspetta. Con permesso?» Mi accostai a Romilda e le scoccai un bel bacione sulla guancia. «Mattia!» gridò Pomino fremente. Scoppiai a ridere di nuovo. «Geloso? Di me? Va là, ho il diritto della precedenza!» «Dal resto, su, Romilda, cancella, cancella. Guarda, venendo, supponevo, scusami, sai, Romilda, supponevo, caro Mino, che t'avrei fatto un gran piacere a liberartene. E ti confesso che questo pensiero m'affliggeva moltissimo, perché volevo vendicarmi e vorrei ancora, non credere, togliendoti adesso Romilda, adesso che vedo che le vuoi bene e che lei... Sì, mi pare un sogno, mi pare quella di tant'anni fa. Ricordi, Romilda? Non piangere, ti rimetti a piangere. Ah, bei tempi! Sì, non tornano più. Via, via, voi ora avete una figliuola e dunque non se ne parli più. Vi lascio in pace, che diamine! Ma il matrimonio s'annulla! Gridò Pomino. E tu lascialo annullare, gli dissi. Si annullerà pro forma, semmai. Non farò valere i miei diritti e non mi farò neppure riconoscere vivo ufficialmente, se proprio non mi costringono. Mi basta che tutti mi rivedano e mi risappiano vivo di fatto per uscire da questa morte che è morte vera, credetelo. Già lo vedi, Romilda qua ha potuto divenir tua moglie. Il resto non importa. Tu hai contratto pubblicamente il matrimonio, è noto a tutti che lei è da un anno tua moglie e tale rimarrà. Chi vuoi che si curi più del valor legale del suo primo matrimonio, acqua passata? Romilda fu mia moglie. Ora, da un anno, è tua, madre d'una tua bambina. Dopo un mese non se ne parlerà più. Dico bene, doppia suocera? La pescatore, cupa, aggrondata, approvò col capo. Ma Pomino, nel crescente orgasmo, domandò: «E tu rimarrai qua, a Miragno?» «Sì, e verrò qualche sera a prendermi in casa tua una tazza di caffè o a bere un bicchiere di vino alla vostra salute!» «Questo no!» scattò la pescatore balzando in piedi. «Ma se scherza!» osservò Romilda con gli occhi bassi. Io m'ero messo a ridere come dianzi. «Vedi, Romilda, le dissi, hanno paura che riprendiamo a fare all'amore. Sarebbe pur carina. No, no, non tormentiamo Pomino. Vuol dire che se lui non mi vuole più in casa, mi metterò a passeggiare giù per la strada sotto le tue finestre, va bene? E ti farò tante belle serenate!» Pomino, pallido, vibrante, passeggiava per la stanza brontolando: «Non è possibile, non è possibile!» A un certo punto s'arrestò e disse: «Sta di fatto che lei, con te qua vivo, non sarà più mia moglie!» «E tu fa conto che io sia morto!» gli risposi tranquillamente. Riprese a passeggiare. «Questo conto non posso più farlo!» «E tu non lo fare!» «Ma via, credi davvero, soggiunsi, che vorrò darti fastidio se Romilda non vuole!» «Deve dirlo lei!» «Su, di, Romilda!» «Chi è più bello, io o lui?» «Ma io dico, di fronte alla legge, di fronte alla legge!» gridò egli arrestandosi di nuovo. Romilda lo guardava angustiata e sospesa. «In questo caso», gli feci osservare, «mi sembra che più di tutti, scusa, dovrei risentirmi io, che vedrò d'ora innanzi la mia bella quondam metà convivere maritalmente con te!» «Ma anche lei», rimbeccò Pomino, «non essendo più mia moglie!» «Oh, insomma», sbuffai, «volevo vendicarmi e non mi vendico, ti lascio la moglie, ti lascio in pace e non ti contenti?» «Su, Romilda, alzati, andiamocene via noi due. Ti propongo un bel viaggetto di nozze. Ci divertiremo!» «Lascia questo pedante seccatore. Pretende che io vada a buttarmi davvero nella gora del molino, alla stia!» «Non pretendo questo», proruppe Pomino al colmo dell'esasperazione. «Ma vattene almeno, vattene via, poiché ti piacque di farti creder morto. Vattene subito, lontano, senza farti vedere da nessuno, perché io qua, con te, vivo!» Mi alzai. Gli battei una mano sulla spalla per calmarlo e gli risposi: «Prima di tutto, che ero già stato a Oneglia da mio fratello e che perciò tutti là a quest'ora mi sapevano vivo e che domani, inevitabilmente, la notizia sarebbe arrivata a Miragno. Poi, morto di nuovo, lontano da Miragno! Tu scherzi, mio caro!» esclamai. «Va là, fai il marito in pace senza soggezione. Il tuo matrimonio, comunque sia, s'è celebrato. Tutti approveranno, considerando che c'è di mezzo una creaturina. Ti prometto e giuro che non verrò mai a importunarti, neanche per una miserrima tazza di caffè, neanche per godere del dolce e esilarante spettacolo del vostro amore, della vostra concordia, della vostra felicità edificata sulla mia morte. Ingrati! Scommetto che nessuno, neanche tu, sviscerato amico, nessuno di voi è andato ad appendere una corona, a lasciare un fiore sulla tomba mia, là nel camposanto. Di, è vero? Rispondi!» «Ti va di scherzare?» fece Pomino scrollandosi. «Scherzare? Ma niente affatto, là c'è davvero il cadavere di un uomo e non si scherza. Ci sei stato?» «No, non ne ho avuto il coraggio», borbottò Pomino. «Ma di prendermi la moglie, sì, birbaccione!» «E tu a me?» dissegli allora pronto. «Tu a me non l'avevi tolta prima da vivo?» «Io?» esclamai. «E dalli! Ma se non ti volle lei! Lo vuoi dunque ripetuto che le sembravi proprio uno sciocco? Diglielo tu, Romilda, per favore! Vedi, m'accusa di tradimento!